Buonasera. Yeah! Ok, ci Ok. siamo. Prova, sa, ci siamo. Ok. Bene. Prima Oddio, possiamo già puntata. cominciare, quindi. Sì, io ero già partita tipo Quindi. Lorella Cuccarini, levati, Simona Ventura chi? Dai, presentatrice, Sì, faccia il il suo cazzo. lavoro. Niente, prima puntata del podcast che abbiamo messo su a fatica, noi quattro deficienti del Con Twitter sempre molta soliti. fatica, vorrei dire. Cioè, tipo, Molto, tantissima. Florigia Mannara. Siamo i quattro sopravvissuti, sono riusciti a esserci. Sì, abbiamo avuto quest'idea, Bene. tipo quando era ottobre, Sì. Ottobre, sì, più o meno. di mettere su un podcast fondamentalmente ripetendo a voce, le vaccate che diciamo su Twitter alle 3 di notte. Perché ci sentiamo molto molto Esatto. divertenti e pazzeschi. Perché lo siamo? Parliamoci chiaro, dai. Questa modestia. Questa è una verità vera. Due mesi di Vabbè, stallo, ce tutto. l'abbiamo fatta, siamo qua. La prima puntata è un po' una cosa di prova, dovrebbe essere, la volevamo, cioè il tema principale, perché ogni puntata avrà un tema, giusto? Più o meno. Sì, Non so questa è se quella che siamo in abbiamo grado di reggere i stabilito, temi, però. in linea. La prima puntata ha tema festività, Capodanno, cosa è successo nel 2017, cosa succederà nel 2018, buoni propositi, tutta quella manfrina lì. Ok, Esatto. partite voi che io con i buoni Beh, io propositi non sono intanto. brava, amici. Cioè, faccio schifo. Aspetta, intanto No, intanto, presentiamoci. come prima cosa, presentiamoci, Giusto, sennò come giusto. fanno a riconoscere le Che nostre siamo così voci? famosi che io ho dato per scontato che ci conoscessero già, capisci? Dai, davi per scontato. No, sì, io sono Priscilla, Pink Space Dude su Twitter. Io sono Riccardo, sono un trattino basso Simpa e cambio nick ogni 3 secondi, quindi buona fortuna. Io E voi sono. altri? Ok, vai, Vabbè, io. Simone, intervieni. Vabbè, io sono Simone, @Kravoc su Twitter. Mi conoscete probabilmente per essere un fanatico delle E i galassie. pinguini. E i Io pinguini. E sono le telecronache di Martina sport a Blond caso. Creature, ma ho cambiato nick di recente, ma non mi ricordo com'è. Comunque Blond Creature dentro c'è sempre. Vabbè, tanto ci conoscono tutti. E Sì. solo perché siamo umili facciamo questa presentazione. Esatto. Ok. Va bene. Ok. Dunque, tema della puntata, festività, come avete passato il Natale? Come passerete il Capodanno? Io farei cominciare a voi perché il mio racconto durerà tipo 2 secondi, quindi andate pure voi. Ok, Vabbè, allora, partite voi che siete fratelli. noi abbiamo passato, giusto, giusto, Noi giusto. niente, abbiamo passato il Natale in famiglia. È stato super carino, abbiamo fatto le cose. Non c'erano abbastanza cani, cioè c'erano i canetti, ma li hanno chiusi in un'altra stanza. No. Non No. so come reagire Sì, ancora. nonna non voleva i cani in sala da pranzo. Incomprensibile, oserei dire. Come Quindi. osa. Hashtag free the cani. Uscite i cani. Basta, a Uscite i cani. Capodanno non abbiamo ancora deciso, cioè non so Riccardo cosa farà, non faremo la stessa cosa ovviamente. Io farò le cose con la gente e questo è Grazie. tutto. No, ho lasciato organizzare gli altri perché mi secca, essenzialmente. Quindi va Non l'avrei bene. mai detto. Ah, e il nostro albero è il più bello Voglio della tua classe. sapere cosa avete mangiato Ah, è vero, cosa si mangia anche. a Natale da voi? Allora, noi, vabbè, lo sanno tutti, però io e Riccardo parliamo dalla Sicilia. In un buco Sì, va bene. sperduto. No, abbiamo mangiato. Mia nonna si è fissata che doveva fare tortellini e cannelloni insieme, tipo. Oddio. Quindi ha fatto sto gran popò di roba. E i cannelloni li ha dovuti per forza fare con le lasagne fresche, quindi erano cannelloni rotolati uno a uno a Mi sento mano, male. capito? Cioè, una roba allucinante. E niente, poi vabbè, carne, risotto, che si va. Bracciole. Cioè, non credo sia niente di tipico. Semplicemente mia nonna ci tiene a fare determinate cose ogni anno e le fa. Wow. Non so come si usi poi in realtà qua. Voi invece? Io, Marti, vai. allora, a un certo punto ho perso il filo perché ho bevuto un Vai, vai. sacco di vino rosso. Tanto per cambiare. Geolocalizzati. A Como. Abbiamo mangiato tipo i passatelli, che sono in realtà però Che una roba sono? emiliana, però non so perché nella famiglia si mangiano sempre a Natale. e la tacchina ripiena, una roba così, e poi tipo un sacco di dolci, quelle cose lì, tutti gli antipasti e roba varia. Però non è vero che, cioè io vorrei sfatare questo mito, non è vero che al nord non si mangia alla vigilia, perché io vengo dal profondo nord e qui si mangia alla vigilia, ci si sfonda pure alla vigilia di Natale. Quindi, cioè, Cioè, avete fatto la cena del sì, la 24, poi cena il del pranzo del 24, il pranzo del 25. 25, la cena del Ok, sì, anche noi. 25 e il pranzo del 26. Ah, Ah, vedi, noi non abbiamo fatto la cena ok. del 25 e il pranzo del 26. Ah, vi Quindi, visto? nord versus sud, capisci? 1-0. Ecco. Wow. Incredibile. Chi Ecco. l'avrebbe... Cioè, la gente sarà Boom! sconvolta. Oh, mio I plot twist. Dio. Si mangia anche al nord. Oh, mio Dio, incredibile. Quindi non si nutrono di rugiada energia dell'universo, wow. Non Di si, ma non nebbia. si mangia solo Di sushi. muschio Di nebbia all'infinito. inquinamento. Anche a Natale. Ho letto su Twitter qualcuno diceva tipo a Milano tra un paio d'anni il cedolone del 24 diventerà il sushi. Che non sarebbe neanche un problema, tra l'altro, per quanto mi riguarda. Sì, no, Cioè. infatti. Noi Simo? abbiamo... Sì, no, scherzo. Allora, di solito anch'io faccio cena del 24, pranzo del 25, pranzo del 26, perché la mia famiglia è tutta originaria della Basilicata, quindi Ok. tradizioni Quella è proprio bella. forti in questo senso. E di solito si mangia lasagne, anzi prima antipasti, Ah, sì. crostini, tartine, robe varie. Lasagne e poi oppure pasta col pesce. Quando è che si mangia il pesce La di solito? La vigilia, vigilia, no? credo. Non ho idea. Non ho idea. Come tradizione. Vabbè, pesce, tutta roba base di pesce. E 26, boh, praticamente gli avanzi Sì, di ovviamente. Natale. Quest'anno però alla vigilia ho mangiato pochissimo. Non mi ricordo neanche più cosa. A Natale. E qua ci vorrebbe una musica triste che si riesce Dai, in volentieri la metterò, ma non post-produzione. credo. Però immaginatevi una musica triste. Mi sono Ma svegliato alle 5 del veramente? pomeriggio. È molto me, sono Quindi non ho fiero. mangiato. Sono Cioè, hai fiero di te. saltato il pranzo. Esatto, e mia Sono nonna molto infatti mi ha triste. Ma quello del fissato 25 o quello di del 26? me. Ah, 25. Ma nessuno ti ha cazzo! Oh mio svegliato. Dio! No, è 20. No, erano tutti... perché i miei Una stanno al piano di sotto, erano già tutti al piano di sotto e io però... triste storia triste. Quindi Mia la tua sorella mi è testa su una saltata picca nel letto la quando... 26 mattina tipo però... alle 9 per svegliarmi perché voleva aprire i regali di Natale, capito? Ah, ecco, quindi voi i Magari. regali li aprite il 25 Sì, mattina. la mattina. Questo è un ottimo Noi invece da turning un paio point, così d'anni. parliamo dei Sì, no, regali. noi da un paio d'anni li apriamo a mezzanotte, cioè proprio noi quattro in famiglia. Ah! Ci sediamo sotto l'albero, ce li scambiamo e li apriamo la sera stessa dopo cena. No, i miei hanno continuato per tutta la vita a fare finta, ma anche quando si erano sposati solo loro, a metterseli la notte sotto l'albero, la notte del 24. Cioè, mentre Ah, l'altro dormiva, se li ok. mettevano sotto l'albero. Addirittura. Noi Carino, però. Sì. Crush di Davide per mio ogni padre in volta questo momento. abbiamo... Boom, boom, boom. Quando ascolterà penserà, ah, quell'uomo, il signor papà di Martina. Noi ogni volta ci troviamo regali Sì, non si nostri. immaginerà A il casa mia. Natale In casa con lui, Lodi, sì. Io probabilmente. in Esatto. orfanotrofio. Tipo lui che si photoshoppa sulla faccia di tua madre in tutte le foto di famiglia. Creepy. Oddio, sì, sarebbe pazzesco. Ah, comunque qua nel registratore c'è un diagrammino e fa degli alberi di Natale mentre parliamo. Guarda, Wow, sono tanto chiaramente alberi così di on Natale. brand. Quindi regali Ma ricevuti, esatto, visto belli, che abbiamo introdotto brutti. l'argomento. Beh, Siete soddisfatti del vostro bottino? Sì. Oddio. Sì. Simone, hai ricevuto un toblerone gigante come quello della foto di Skype, vero? Ti piacerebbe. No, in realtà, vabbè, a parte i miei genitori che come ogni anno mi danno i soldi direttamente e Onesto. poi mi compro io quello che mi serve, di solito il regalo che facciamo io e mia sorella. E vabbè, lei mi ha regalato il libro di Disaster Artist. Stai proprio Che... andando in chiusone, Simone. Stai deviando per la Sì. tangente. Esatto. L'ho cominciato ieri, però me lo voglio prendere con calma perché Giustamente. voglio godere tutto. E a lei le ho regalato un libro che volevo, non mi ricordo neanche quale, però Bene, vabbè. così. Quello Hai già è idee di l'essenza. investimenti per il bottino in contante, per la famigerata busta coi soldi? Ma sapete che io non ho avuto La neanche 5 euro in busta con due contanti? B. Neanche 5 euro. Ah. Vi giuro, zero soldi. Io pure pochino quest'anno, ma perché ci Ricchi. siamo comprati cose a vicenda. Cioè, le buste coi soldi. Cioè, quando vivi fuori, i tuoi genitori ti fanno il versamento mensile. La busta coi soldi perde senso. Cioè, preferisco mi regalino qualcosa di pensato loro, Sì, certo. siano andati a comprare materialmente, capito? Anche se è una stronzatina, però va bene. Cioè, tipo mio padre, nota persona burbera TM, Sì. ma che ho registrato, ci ha regalato una tazza dolcissima, tipo con una dedica, tipo a A mia mio figlia, figlio le capirai perché ti cose. amo, perché ti dico questa cosa qua, cioè è stato super carino, Ah. non me l'aspettavo. Sì. Però musica strappata, quindi sul Però sottofondo. non c'era scritto i migliori figli del mondo, quindi io sono ancora amareggiato. Vergogna. Sì, all'inizio pensavo fosse, sai, una di quelle stronzate al miglior figlio del mondo, tipo con la medaglia. Invece no, era una dedica vera. Però non c'era scritto al miglior figlio del mondo, c'era scritto a mio figlio e a mia figlia. Quindi capite che. Cioè, si poteva fare di meglio, Sì, diciamo con così. un po' di sforzo in più si poteva. Io la sera, sapete che io la sera di Natale ero in un parco e ho sboccato. Mi sembrava giusto dirvelo. Ma come? Manteniamo le tradizioni, Martina. Si fa I così. Ma perché valori avevo veri. freddo? Stavo andando a casa di una mia amica, ero al telefono. Ho chiuso la telefonata dicendo Questo è scusa, quello che devo. dicono No, tutti, veramente. devono Ho essere detto scuse. scusa, devo vomitare. Ho chiuso la telefonata. Ora quel tweet ha molto più senso. Ero proprio. Attendi in linea, devo vomitare. E poi immediatamente dopo che okay, ci sono. Sì, più o Ehi. meno è andata così. Avete presente il cagnolino con la spina in bocca? Problemi tecnici. Vomito in corso. Ma cioè, eri del tutto Sì, sobria o è no, stato raga, stavo un benissimo, mix? avevo solo Ok. freddo. Ma infatti, tipo, poi quando sono Ok. No, tornata. pensavo fosse No, no, un'azione no, poi avevo la combinata. febbre, in realtà abbiamo scoperto più tardi. Ah, ecco, vedi. È che non ci fidiamo più di te, Martina, devi capire. Ma neanch'io mi fido di me. Infatti, per quello ho provato la febbre. Perché non mi Ah, fidavo di me stessa. Capite? E per Capodanno invece avete già pensato a qualcosa? Cosa si fa in casa? Cioè, fate cena con i parenti, poi fuori? Insomma, come funziona? io non sono a Como quest'anno. la mia è un'altra storia triste, quindi andate voi. Io sono da Simone oggi Davide, proprio. quindi. Ah, è vero, è Quindi non so cosa vero. faremo. Davide, di cui inseriremo un clip qui, se ci Sì, riusciamo. Come gli youtuber quando indicano lo In spazio. post-produzione, un clip audio di Davide che. Speriamo e me lo dico da solo. Se no lo farò io. Simone è il nostro addetto tecnico e Esattamente. anche Sì. mente prima che ha uscito quest'idea del podcast. Quindi diamo a Simone quello che è di Simone. È scimmia da lavoro che ha dovuto Grazie, combinare grazie. tutti Troppo i gentile. nostri audio della prima prova. Quel Poi. pover'uomo che ha dovuto. No, io, cioè, in realtà non avevo idea di cosa fare fino a oggi pomeriggio. Penso che faremo Capodanno in piazza a crepare di freddo fino a mezzanotte, poi alle 9:30 Oddio, tutti a anch'io l'ho letto perché fatto un siamo anno. vecchie. Io in realtà Capodanno in piazza non l'ho mai passato. Però pensavamo di fare una roba molto, molto easy, vino rosso, arriviamo in piazza dopo cena, stiamo lì fin quando ci va e poi ce ne torniamo. Cioè, una roba tranquilla perché, non lo so, negli ultimi anni i capodanni sono stati un po' tutti deludenti perché mi aspettavo chissà che cosa perché capodanno ti devi divertire, c'è la Sì. pressione del capodanno, devi bere, devi fare le cose. E alla fine riuscivano sempre tutti un po' meh. Quindi magari quest'anno che abbiamo deciso oggi, 28 dicembre, di andarcene in piazza con due bottiglie di vino, magari diventa il capodanno più Sì, figo della mia Capodanno vita, della vita, capito? Non si secondo sa. me. Sì. Spero in Secondo questo. me le robe molto easy sono quelle Sì. meglio, Eh sì, secondo me. perché ogni volta che si organizza in casa si cerca di fare una roba in anticipo, poi diventa sempre tutto un boh. Cioè, Eccessivo, almeno tra l'altro. nella mia esperienza. Cioè, tipo, noi abbiamo un banchetto, da quello che ho capito, già deciso, cioè con cosa mangiare e tutto il resto. E già se non va mezza cosa, la gente che ha organizzato inizia a triggerarsi. È un po' rischioso. Tu, Marti. Io non so cosa faccio perché sono da Davide e non abbiamo ancora fatto piani perché il piano quest'anno è stare insieme, quindi faremo. questo. Sì, Non ok. lo so, ci mucheremo qualche Sì. festa, immagino. La vita estrema di Reggio Calabria, cosa offrirà in La nightlife di Reggio 31 Calabria. notte? Non lo so. Sì. No, non ho idea. Poi i propositi, cioè come... Comunque, Manca in realtà, io Simone! sarei Non voluto essere andare a maleducato! Berlino a Ma un mal... Oh rave di mio Dio! 60 ore, però non vado a A Berlino, prendere gli quindi acidi? sì. Una Sì, roba sì, sì. tranquilla. È una volta nella vita che fa un tuo, fai un rave a Berlino, Esatto, capito che cioè secondo me è il dicendo? Voglio Capodanno dire... Infatti, dai. La storia triste di Simona? Ma io mi sa che me ne sto a casa. Sei ufficialmente Mi invitato in mangio. piazza San Giovanni a Ragusa a passare il Capodanno più bello della tua Ma vita. se faccio in tempo. No, mi sa che me ne sto a casa, mi mangio la pizza, tipico piatto di Capodanno, e mi guarderò un film, tanto per cambiare, come al solito. Ho già mangiato una pizza, una vittoria, quindi non è poi così Infatti, triste. no, io sono molto soddisfatto lo stesso. Beh, la Bene, pizza comunque rende sempre belle le giornate, quindi cazzo tene. sì. Esatto. Adesso è il momento peggiore, è il momento dei bilanci, Oh giusto? no. Che è la cosa peggiore del Capodanno e noi la facciamo qua davanti a tutti perché fa figo. Tanto per piangere in Sì. Sì. Musica tensiva. Voglio la musica di chi vuole essere milionario qua. Cioè, questa Ah, è roba l'ho vero. scampata in analisi, la devo Io fare adesso proprio. vi dico le musiche perché non so se riuscirò a metterle. Vabbè, casomai noi le Però ve le indichiamo. dico così la gente si Sì, immagina esatto. Noi l'atmosfera speriamo giusta. nel potere immaginativo dei nostri ascoltatori fedeli. Esatto. Cosa avete imparato nel 2017? Cosa volete imparare nel 2018? È stato un anno di merda. Com'è andata? Com'è andata? Ditemi. Allora, sinceramente, sotto comincio io Vai. perché me la sento. Allora, 2016 è stato un anno per me abbastanza Yes. terribile, dico la verità. Però ho imparato un po' a gestire meglio i periodi un po' più brutti, diciamo. Questa è una cosa che mi riconosco. 2018, spero di averne meno, ecco. Però Ora sei già avendo pronto. imparato un po'. Sì, sono già più preparato, ecco, quindi. Che non è male, non è da dare per scontato. Me la vedo già con uno sguardo un po' più Ah, ottimista, diciamo. bene. Dai, Un film dai. trash alla volta e si svanga pure il prossimo anno. Ok. Ok, vai, prego. Chi tocca adesso? Ok. No, niente. È stato il quinto, quindi un po' di pathos, un po' di panico buttato lì. Ho conosciuto le persone, cioè il primo periodo del Politecnico, ho chiesto a chiunque come si chiamasse, ho fatto lo psicotico. Spero di non doverlo fare il prossimo anno. Perché, cioè, la gente seduta accanto a me, io che gli inizio a parlare senza senso. Ciao, come ti chiami? Io sono Riccardo. Sì, ora ti salvo su Facebook. Avete presente l'ansia? Quindi spero di non dover più terrorizzare le persone così. E poi spero che mi riconsegnino il PC perché è impazzito di La brutto. priorità della sua vita, Esatto. il Esatto. PC, Ha non perso mandare la in testa. assistenza adesso. Ma sarà mica un problema di circuitini? Oh, Ma raga, ma oh che mio cazzo è sta cosa dei Dio! circuitini? Mirko che fa finta di non usare Facebook, ma in realtà secondo me è sempre lì a cercare la roba. Ha trovato sto È stato gruppo. il solito delirio Sì. notturno che mancava da un po', Sì, bisogna l'ho dire. segnato nella nostra lista del TNS Best of. Bravo. Poi magari ne parliamo di quella lista Sì, anche qua. sì, sì. Cavolo. Ci sono momenti da ricordare Serata abbastanza revival facciamo. importanti. Bravo, esatto. Sì. Ha trovato sto gruppo, com'è che si chiama? Elettronica Circuitini, mi pare. Un gruppo di Esatto. appassionati di elettronica e di circuitini. E di Cosa circuitini. sono i circuitini? Hai presente i microchip? Sì. Però chiamati circuitini sono molto più carini. Ah, per gli Più amici carini, circuitini. Ok. Come noi chiamavamo Mirko sì, però Mirkini. c'è. Cioè, c'era sta gente che... Sì. Esatto. C'era Esatto. sta gente che postava i circuitini chiedendo consigli su come crearne di altri, come riparare quelli loro. O come creare pistole per sparare alla gente, tipo il Ah, Candido, il taser. signor Candido che non era Candido Nozzo Candido. Candido. Oppure la gente che ti faceva ripassare i campi magnetici nei solenoidi con i maginette e i Cazzo, flashback mi di serviva per la guerra. maturità sta cosa. Vedi? Tardi. E tu perché non sei andato a... Vedi, dovevi diventare una circentina. Circines. Sono Un molto botto di triste. gente. Poi gente eccitata dalle Tesla Tesle auto. Sì, autocostruite, come si Tesla chiamavano. autocostruita. Ma quindi c'è gente ambiziosa. Sì. Ah, Gente che uno. con questi circuitini ci voleva fare cose, ci voleva Uno è conquistare il arrivato. mondo. Ho in testa un progetto per una macchina elettrica che si ricarica mentre cammina. Qualcuno sa fare i calcoli per realizzarla? E noi tipo, ah, ok, così. Buttata lì. Vabbè. Normalissimo, quindi. Sì. Che storia parlare delle robe che scrivono su Twitter a voce? Wow, è Wow. così Sì. meta. È meta. Meta Twitter. Sfondare la quarta Così buttata dentro. parete. La parete del disagio, l'abbiamo appena sfondata. Io ho capito la carta parete, ma cosa c'è la La carta parete. carta parete? Ci sarà un gruppo di appassionati, Di carta carta da parete. parati, pittura in bianchini. Che poi la sfondano e quindi fanno i meme sul fatto che sfondano la carta parete. Tutti Sì. Tutti i saputi di cinema che capiscono questo gioco di parole, carta parete, quarta parete, Sì. immagino. Io ieri non mi ricordo chi stava scherzando sul suo futuro da persona ricca e sui servitori e gli ho detto di accoltellarli come ha fatto Dasto e lui mi ha guardato male tipo sono le due, puoi per favore non fare No, per questi favore non parlare di riferimenti. letteratura italiana. Esatto. Mai. Puoi non essere colto, per favore. Un attimo, ti prego. Sì. Non dimentichiamo la grossa fissa per Kant di Riccardo. Ah, sì, Madonna. ogni volta che Priscilla parla di bello o di qualsiasi cosa sia minimamente filosofico, siccome ha trattato di tutto e tutti hanno parlato di lui, oppure ha ripreso cose degli L'ho sentita altri, l'ammirazione nella io sua voce, come ha dell'idolatria di parlato di tutto. quest'uomo. Cioè, proprio se Kant fosse stato il Musica tuo di professore, tu ammirazione. tipo morivi in prima Botta fila tutte le pazzesca, lezioni. Botta totale. totale, Tipo proprio. Crash. Avrebbe Sì, avuto una crash sì, sì. sicuramente. I sospironi ogni volta Scusi, che professore, diciamo mi nelle può sue dare parole. Tipo. ripetizioni? Perché forse le ho Private. private a casa sua, magari. Chiodatissime. Con le luci Ma soffuse. Crea un po' sua moglie in d'atmosfera casa? per No, le perché sai, in casa facciamo ripetizioni. un'altra sera. Ieri dopo c'era una bottiglia di vino. Non è il Parliamo del caso. sublime. Lei è il mio Esplodiamo sublime. insieme sul Sto muovendo le sublime del sopracciglia con fare insinuante, ma voi non lo potete vedere. c'è del materiale per una fanfiction. Ma secondo te sarebbe morale fare ripetizioni, tra virgolette, davanti a sua moglie? E se sì, perché? È una massima o un imperativo? E lui. Come ci siamo Ok. finiti in questa cosa? Dove ci siamo cacciati? Come succede Non sempre si sa nelle mai. Questo è il bello. serie. È che, dai, quando non sai di cosa parlare, parli di Kant. Certo, È giusto di Quanti proprio. No. Come tutte le persone oggi. Sì. Di cos'altro vorresti parlare? Poi. Ma chi è che doveva continuare a fare i propositi? Chi li ha Ah, è vero. fatti? Io mi Detto guardo solo io. intorno, Mario circospetto, Riccardo? Sì. fischiettando. In questo momento. Tipo, no, io l'anno prossimo vorrei morire, però non voglio dirlo in diretta. Propositi per l'anno prossimo, crepare. Crepare giovane e bella. No, No, io posso. Dai, dai, non ti quest'anno preoccupare. ho fatto fatica a fare cose, però altre mi sono piaciute molto e in realtà non voglio dire che è stato un anno di merda, perché secondo me ci sono state delle belle cose. Non lo so. Tipo Moonlight che ha vinto Esatto, contro La La Land. cavolo. Quindi in realtà Uno dei momenti più belli. me la sento molto positiva per l'anno nuovo. Voglio andare a tanti concerti, uscire con la gente, fare le mie cose. Non ho Obbligarti. tipo aspettative, ribalterò la mia vita perché in realtà non succede mai. Però, cioè, sto bene. Quindi, Dai, cioè, niente. facciamo tanto i diversi del Ma cazzo, vero? ma Cioè, però non è siamo vero in fondo. positivi, siamo. Dai, no, Esatto. io mi sono trasferita a Milano, Lo so. quindi è stato un anno straimportante per me. È andato parecchio meglio del precedente, sicuro. Ho imparato un sacco di cose proprio a livello di cioè, conoscere me stessa e riuscire a rapportarmi con gli altri, che era una cosa che un po' mi era mancata negli anni precedenti. Quindi sì, sono carica. Sto aspettando il 2018 per portare ancora avanti le cose che ho imparato nel 2017, per perfezionarle ancora di E per più. andare a vedere Cosmo? Quindi sì, dai. E per andare a vedere Cosmo il 23 novembre sì, novembre, il 23 marzo al Fabric. Esatto. Il 23? No, il 24. Ah, vabbè, fai il post 24. compleanno, festeggia la mia nascita, l'avvento del Messia. Certo, poi vado a vedere Cosmo la sera dopo. Esatto. Sì, no, quindi no, cioè, direi bilancio positivo, umore per l'anno prossimo alto. Ah, visto che io ho un problema con i numeri, date un voto all'ultimo anno. Ah, è vero, ok, no, ha senso. Allora, io capisco che per il mondo il 2017 sia stato un anno disastroso, però io sono un'egoista No, egocentrica. no, anche per me. Di conseguenza, no, cioè, il mio anno, cioè, darei un 7,5-8 al Quella. 2017. Da un punto di vista strettamente personale. Ok. Voi? No, io non voglio dare un voto, raga, non gliela fa. Lasciatemi Senti, credere che sia Martina, stato un anno positivo, non voglio. 5 meno. Dai. Meno, recuperabile quindi. Sì. Sì, Ultima dai, interrogazione a siamo entrambi a giugno. posto. Prendi un 7 l'anno prossimo e ci sei. Esatto. Io direi tipo 8 abbondante, perché Torino è bella, Secchione, che vuoi? Sono ancora affezionato al liceo e quindi continuo a sparare voti sulle cose. Immaginate una persona con una specie di bazooka o una mitraglia che spara voti. Sì. Ci vorrebbe qualche videoclip integrativo, Simone, pensaci. Come facciamo a fare i videoclip su un podcast? Silenzio. Buongiorno Silenzio. Riccardo, benvenuto. Non ti rispondo perché non ti voglio insultare, Riccardo. Apriamo un canale YouTube. Gli ologrammi, tipo. Why not? Tipo che. Una Sì. tecnologia nuova in cui Inventiamolo, raga. dalle Una cuffiette roba spariamo semplice delle come quello che voleva immagini. fare l'auto elettrica che si rimaneva dentro l'acqua. Allora, Impariamo a costruire i circuitini. E a botta di a circuitini creiamo questa. proposito del 2018, imparare a fare i circuitini. Imparare Ci sta. a creare un ricetrasmettitore di immagini direttamente dalle cuffiette alla testa, al cervello, tramite tutto tramite circuitini. Che ci vuole? Basta. Sono Boom. tipo il motore dell'universo. Si C'è vede che hai qualcuno che fatto sa il fare i classico calcoli come per me. realizzarlo, Git? Cioè, Ah si sì? sente, sì. Comunque, Perché io avrei detto fun la stessa fact. cosa. Menti Completamente affini. inventando. Sì. Questa C'è convinzione che la la prima fisica possa fare tutto pseudo. in qualche modo. Cioè, basta mettere Ma insieme perché tutti io gli la fisica non la esistenti. conosco, cioè per me. Tutti i circuitini, sì. Esatto, Cioè, per me la fisica è completamente sconosciuta, quindi a livello esatto, potenziale può fare qualsiasi cosa che esista, io non lo esatto, so. esatto. Yes, la Quindi. fisica approssimativa is the best fisica. Comunque, fun fact, il primo caschetto stavo per dire per i circuitini, certo, per gli ologrammi ha un campo di visione Fatto con i limitato, circuitini. è fatto con i circuitini, tantissimi circuitini, Per e forza. costa tipo 3.000 euro, quindi Vabbè. magari facciamo un'altra volta. Dai, per altro proposito per l'anno prossimo, diventare ricchissimi. Ne compriamo uno di gruppo, ce lo mandiamo coi pacchi così al primo viaggio lo disintegrano. Mannaggia. Ah, ecco, L'altra volta. l'altro mio proposito, Sì. scusami. Vai, parla, poi io dico la mia Vai. puttanata. Il mio proposito per il 2018 è vincere il Toto Limone. Ok, che abbiamo abbandonato a un certo punto. Cioè, dovevamo fare a Esatto. fine anno, dovevamo fare il conteggio. Esatto. L'anno Per chi prossimo, non lo sapesse, seriamente. il Toto Limone è una gara. Tanto per me è uguale all'inizio anno, quindi. È una specie di gara, chi limona di più. L'avamo organizzata Ah, giusto, dobbiamo mensilmente spiegarlo. su Twitter. Chi Solo limona che di poi più annunciare i colla? limoni è diventato sfigato, quindi. Sì, quindi abbiamo smesso. Poi chi vince, vince la Chi vince cintura la col cintura, quella limone, del wrestling che ricordiamo. facciamo su Italia 1 con John Cena e Eddie Guerrero, però al centro c'è tipo stampato un limone. Questa sembra l'ha fatta Mirko, credo, mi pare, Sì. quest'opera di Photoshop Sì, incredibile. E confermo. a fine mese, in teoria, si dovevano tirare le somme. Io Chi è ero che io. sta morendo in questo Scusate, ho punto? smesso di morire. Marto. Ok. Brava, così ti vogliamo. Però insomma, una In morte diretta. nel In diretta. podcast poteva Sai fare quanti ascolti? ascolti. Eh? Come si chiamano quei video terribili del deep web in cui cioè, la gente tipo muore in video? C'hanno un nome Non lo so, però specifico. era la stessa roba delle pantomime romane, cioè portavano tipo, facevano le tragedie e i condannati a morte venivano tipo crocifissi in scena. Beh, allora era legale, Eh però. sì, no, c'è sta tipologia specifica di video in cui si vede la gente morire, che non ho idea di chi li faccia e di chi li metta online, però Non ho esistono. idea, forse non lo voglio neanche sapere. Yeah, Però viva c'era, l'ho l'allegria! visto in una puntata di Criminal Minds, anch'io, è vero. Confermo. Comunque, tecnicamente, quello di novembre credo di averlo vinto io. Ma sì, Però, perché io sì. non so niente. Però c'è. Questo è tema per un'altra Esatto. puntata. I I limoni. limoni. Tanto io ne do tipo uno o due l'anno, quindi Sì, facciamo parlare poi. Martina. Sì, è vero. Martina penso che lo vinca a mani basse attualmente. Io, cioè, dico di aver vinto quello di novembre solo perché erano i primi di novembre, non peraltro. C'è stato un periodo della mia vita in cui, tipo, la prima settimana del mese limonavo e poi Da basta. Cioè, sempre. tipo, vinco il tutto di limone e poi mi. Sì, tipo, per un paio di mesi di fila. Cioè, tipo, vinco e poi basta, cioè, lo faccio solo il toto limone. No, in realtà sì, penso che tra noi quattro vinca Martina a Sì, mani ma basse. di brutto. Io finora mi sono tenuto al ritmo di uno per anno scolastico. Non è male. Wow. Una media Ti sei tenuto dignitosa. al ritmo? Sì, ma a partire dal quarto. Sì, ma cioè, ho iniziato tardi. Io mi mantengo al ritmo di uno ogni cambiamento del campo magnetico, quindi. Quindi ogni terremoto di magnitudo 9, perfetto. C'è Ma stata. cioè, poi tra l'altro il primo è stato a casissimo. Stiamo degenerando. Sì, è vero. Va bene, va Dai, bene, va dai. bene. Andiamo nel profondo, nelle Sta viscere. diventando una specie di No, seduta prego, prego, psicanalitica. degeneriamo, per favore. Via Skype. Allora, come ti fa sentire questa immagine? Che non possiamo vedere perché è un podcast. Puoi, però. Buongiorno. Allora, Descrivi. facciamo così. Switchiamo le videochiamate, facciamo i test con le macchie le disegno io sul momento, quindi non è neanche un test affidabile. Quindi non ha No. senso. Stai parlando a vuoto. Esatto, come facciamo tutte le notti su Twitch. Stavi dicendo, Riccardo, sul tuo primo limone. Niente, che voi in realtà ne eravate pure al corrente. Cioè, è stato un po' a caso perché ero amico con questa ragazza, però era pure buona amica della mia ex che avevo lasciato Immagina se pochi queste mesi ragazze prima. ascoltano questo podcast. Sarà super divertente Non gestire lo questa cosa in real faranno. life. Eravamo bellini entrambi e ci è sembrata una buona idea, giustamente. Però. Pubblico che fa Oh. Ok. Però c'è cioè, un po' a casaccio. Tra l'altro, giustamente, in quell'esatto momento è arrivato il padre della persona che l'ha festeggiata perché era un diciottesimo. E noi eravamo tipo, ciao, Mamma non mia, sta oddio, che succedendo imbarazzo. niente. Vabbè, i primi baci sono sempre strani. Sì. Eh sì. No, che poi di per sé, cioè, non è stato il problema farlo, il problema è stata la Sì, circostanza, tutto il resto. Quindi avete presente i film? È stato solo un errore, per favore, possiamo archiviarlo ok. È come un bel stato solo un momento e bacio, non non voleva pensarci dire più. niente. Esatto. Una puntata di Tempesta d'amore. Sigla di Tempesta d'amore. O di Deledia Con. anche. Ma, oh mio Non me la Dio. ricordo la sigla di Deledia, come faceva? Mamma Allora, mia. io ricordo la seconda, che era super tecnologica, sul rosso, con le immaginette. Sì, se sembrava quella di Sì. Anna. Davvero? Il contenuto era un po' diverso, però con la sigla c'erano. No, invece quella di Tempesta d'amore è bellissima con le dissolvenze, le Tempesta montagne. d'amore era quella che guardavamo alle 4 di notte, Sì. come i disperati. Quella con i Sì. cavalli, sì. Con le Perfetto. relazioni. Quello con Mister Cavallo. Sì. La gente che pomicia sul cavallo. Ah, che bei ricordi. Il Pomice non lo prete. sentivo dire dal 2014, credo. Perché io sempre a passo, sapete. Allora, siamo a 34 minuti. Questa parte. Bene. Non ci siamo messi d'accordo sulla chiusura, quindi. Quindi, Ah. vabbè, fuochi Niente. d'artificio. Che facciamo? Chiudiamo? Continuiamo? Teniamo tutto dentro? Non lo so, ditemi voi. Non so. Ma Continuiamo? continuiamo, dai. Sì. No? Parliamo di Tempestama. Ditemi Ve la voi. sentite? Per me sì, Vai. raga. Sì. Voi ricordate? Ah sì, arriviamo, boh, un'ora? Troppo, Boh, troppo vediamo. poco, no, Tanto la dipende. cosa bella della TNS è l'improvvisazione. Fare le cose a Esatto. caso. Voi ve lo ricordate il prete che non si capiva se avesse 14 anni o 40? Perché io sì. Era tipo il fratellastro del proprietario dell'hotel. Che non Ma era di il cosa state proprietario parlando? legittimo. Sì. C'è stato un Tempesta periodo, forse d'amore, ma film. ma io Sì. non l'ho visto. In cui abbiamo Sì. scoperto, È davano tipo. male, male. Recupererò. Davano tipo quattro puntate di Dawson Creek di fila, e subito dopo, No, non mi era ricordo Settimo neanche se. Cielo. Ah, era Settimo Sì, Cielo. Dawson Sì, Creek sì, sì. vecchio. Ok. Sì, Settimo E Cielo. subito dopo, mi pare in un altro canale addirittura, davano Tempesta d'amore tipo fino alle 4 di notte. Oddio, ok. E ovviamente noi ci siamo fiondati come mosche sul miele su Tempesta d'Amore per l'alto potenziale di trash e di commentabilità su Le Twitter. vicende ambientate all'Hotel Belfort. Ah, il fuck Ino. Scritto fuck Ino. Quindi mi è passato quest'estate a vedere sta roba con gli occhi gonfi alle 4 di notte senza capirci un Siccome cazzo. non ci hanno tolto Music Line, Stiamo ancora elaborando il lutto. dovevamo Stiamo trovare ancora in qualcos'altro. lutto. Esatto. Ah, ma Music Line, parliamo, cioè Music spiegate cos'è. Line, parliamone. No, in realtà, ma dopo Sanremo lo rifaranno, secondo voi? Perché io mi ricordo l'abbiamo scoperto la sera di Anche secondo me, Sanremo. sì. La Sì, sera? perché guardavamo o Sì. Marzullo o Music Sì, Line. perché cioè, eravamo talmente tanto in botta da Sanremo che non si poteva, cioè eravamo tipo stra adrenalinici dopo la puntata e dovevamo continuare a vedere robe e a commentarla perché Esatto. Raga, ma io l'energia devo dire una repressa. cosa su Sanremo. Dai. A me non è che piaccia Rullo i tanto. tamburi. Boo! Falsa! Cosa? A me non mi piace No, tanto io. Sanremo. Cioè, c'era un problema audio, non ho sentito bene. Che a Io la. me non piace tanto Sanremo. Cioè, io lo guardo per voi. Ma non deve piacere, Ma cioè. chi è che piace? Cioè, chi è che. Non lo so, secondo me è più il significato comunitario di Sì, Sanremo. Ah, ok, non vi piace. Cioè, se lo sì. guardaste da soli non lo È come i guardereste. mondiali, scusa, no? Forse Non sì, credo. probabilmente, perché sono una No, pazza io sì. masochista. Però Sì. poi quest'anno, cioè, hanno rilevato i big e ci sono rimasto di me, cioè non c'è quasi nessuno Ci di sono i interessante. Deci, Ma c'è lo stato sociale, raga. Decibel? E beh, allora sì, e beh, sono già lì. Scusa. Io No, boh, cioè, voglio sono rimasta assistere live Mancia alla morte Bianchina. dell'Indie. Col cero in RIP. mano. Poter dire io ero lì. Riposa in pace, piccolo angelo. Piccolo angelo peloso, che Oh mio significazione solo Dio! per la TNS. Di com'è che si chiamava Julia Shai Ahiri? Che cazzo era? Giulia Sciuca Acero, mi Giusto. pare. Che, cioè, praticamente l'abbiamo scoperta con la stessa identica situazione del gruppo dei circuitini. Sì. Cioè, Mirko è È sempre colpa venuto, di ci ha Mirko. buttato addosso sto gruppo ridicolo di amanti dei gatti, in cui erano tutti sgrammaticati e stradivertenti, e ci Ok. abbiamo campato per 2 giorni su sta cosa qua. Però tipo amici gatti leoni, no? Sembra. C'era questa Cioè le chiocciole al posto dell'A. mi Michiocciola O, aua. sì. Sì. Non so, cioè Mirko ha un canale privilegiato per questa parte di Facebook che noi non vediamo. Non capisco. Ha un Però sì. dono, vede cose che noi non vediamo. Dobbiamo portare i testi di Giulia a Sanremo. No, facciamo una puntata di podcast in cui reinterpretiamo drammaticamente tutti i testi di Giulia. Sì. No. Sì. C'è tanto Che materiale. praticamente era una donna molto appassionata di animali e gatti che augurava la morte in caps lock a chiunque non li trattasse bene. Poi Quindi era una metteva. roba bellissima, tipo infami, cancro mortale, morite, così sì. Era molto musicabile. Sì, molto overdramatic, tra l'altro. Allucinante la morte. Sì, la. Morte allucinante. Sì, quello è uno dei suoi delle sue hit. Martina, tu Piccicato. dove sei quando noi facciamo queste cose? Sei Dormi come la manchevole. gente normale. Non Non devi dormire dormire. non Non si serve. dorme. Dormire fa male. La scienza è d'accordo nell'affermare, unanime, che dormire fa male. Infatti noi siamo tutti molto in salute, devo dire. Sì, anche Esatto. proprio a livello. Io ho le occhiaie anche quando dormo 12 ore, di cosa stiamo È colpa parlando? di Twitter. Colpa di Twitter. Anche. Sembri, sai, là con i Però. genitori che tipo tu dici ho la febbre perché stai sempre attaccato al telefono. Così. Cioè, la cosa ridicola è che gliel'ho portato io su Twitter. Quindi è colpa Ho mia. Ho creato un creato un boss. mostro. Lilla ci ha Sì, creato. infatti. E tra l'altro. Me la potete prendere con me. Mi potete venire a maledire per questa cosa. Non posso parlarne in giro perché sennò riattaccano con il cellulare, ci sta uccidendo tutti. Il wifi ha dato fine alla nostra society. E Sì, è tipo quella continuiamo. vignetta di Skinners che dice tipo, sarà la società che è malata, l'economia che è a pezzi, e i nostri genitori che hanno distrutto tutto o è colpa della tecnologia? No, no, No, è la tecnologia che è sbagliata. Poi ricordo quando è nato internet, era colpa di internet. Quando i PC hanno iniziato a essere di massa, era colpa dei PC. Però adesso i PC. Poi, ancora prima in realtà della televisione. Adesso la televisione fa niente per stare là anche a guardarla. La Sì, ma radio tipo fa, io mi ricordo i una quotidiani, di vignetta. brutto. Esatto. Sì, una vignetta sul fatto che tutti leggono i giornali e non si guardano più negli occhi e cose così. Ed è Quindi risuccesso. è da 2 secoli che va Probabilmente avanti. anche nell'antico Egitto i papiri erano visti È colpa dei abbastanza. papiri. Staccati da quel papiro e vai a dormire. Guarda la gente negli occhi. Non abbiamo il wifi. Sì, ah, I quei locali barcoli, non abbiamo il bellissimi. E wifi, imparate a guardarvi negli io occhi. non ho Sì, soldi da vaffanculo, io devo darti, va venire. bene? Mi devo pubblicare nelle storie. Il mio Instagram non si camperà da solo. Io non voglio socializzare, voglio il mio wifi. Esatto, ma a parte che, scusa, secondo quale principio non avessimo i cellulari, né i giornali, né i papiri, né i gatti da venerare, perché è sempre l'Egitto, sapevo, né le tavolette incise con cuneiforme, perché dovremmo parlare con la gente? Ma Se non mi va, non infatti, mi va. sì. Cioè, l'essere umano fa schifino a prescindere. Cioè, il cellulare mi sta soltanto aiutando a non. A Aiuta. tenermi Non mi ricordo lontano. Sì. quale filosofo ha detto l'essere umano fa schifino, proprio testuali parole. Uno Forse, famoso tipo, comunque, uno importante, secondo me. forse sono quasi sicuro che Locke abbia detto l'essere umano fa Homo homini schifino. lupi, lupi, come Esatto. cazzo era? Che L'essere umano significa? fa schifino. Esatto. Questo Traduzione diretta. podcast è anche pieno di cliché. esatto. Rick non era Kant, Ah, siamo oh. sicuri? Non era Purtroppo. Kant. No, lui sa tutto di Kant, No, non allora, poteva però essere. se volete posso dirvi secondo Kant come puoi non fare schifino, però facciamo per un'altra volta. Oh. Facciamo una rubrica ai consigli di Kant. Il consiglio di oggi di Kant è rendi il tuo imperativo una massima. Se funziona, stai agendo moralmente. Tin tin! Poi ho un aneddoto. C'è un mio compagno di classe del liceo che era proprio portatissimo per le lingue. Infatti, alcune volte, tipo, leggevamo i suoi appunti d'inglese e c'erano frasi come Modern artist such as, punto, così, che finivano. A un'interrogazione ha risposto, la prof ha chiesto Have you got a pet? E lui ha detto no, because I'm not very good at English. Quindi aveva capito che PET fosse la certificazione. E quindi siamo morti, morti. Latino era anche peggio, solo che io purtroppo non ho avuto accesso diretto una sola volta, ho sbirciato così. Ha detto l'inverno tormentato dai gelidi arti. Quindi io mi immagino questa persona che mulina con le braccia Vabbè, e Game of l'inverno che ne Thrones, viene danneggiato o praticamente. qualcosa del genere. Esatto, gli estranei. Gli Cosa? estranei di Game of Thrones. Tu non l'hai visto? No. Cazzo. Come fai a vivere su internet senza aver visto Game of Thrones? Sì, infatti. No, vive molto meglio Sì, no, di ma il noi. 90% dei riferimenti per te, cioè, ti scorrono davanti agli occhi senza capire niente. Allora, io non conosco nessuno. L'altra volta, in un film, ho pensato, wow, ma che simpa, che bellino sto tizio. Era Jake Gyllenhaal. Buongiorno, Cioè. buongiorno anche a te. Benvenuto nel 2017. No, ma mi capita tutte le volte. Io non posso continuare a vivere così. L'altra volta non mi ricordo di chi parlavate. È tipo, ma una volta un tizio così colà non capisco. Io tipo, indovinate chi è che non sa chi sia? Non ce la faccio, io non so dove ho vissuto in questi anni. Era Jay Gillen, che non sapeva chi No, lui l'ho recuperato col tempo. So pure scrivere il suo nome. fosse. Boom! Boom! Ok, sono rimasto un attimo. Questo momento di silenzio. Sì, sono rimasto un attimo Super ipnotizzato zoom. a guardare la lineetta. L'hanno tolto, no? Era una roba solo di Halloween, mi pare. Sì, è Sì. successo poco. Però adesso c'è praticamente Io un lo adoravo. corrispettivo, cioè fa un altro rumore, ma sempre quello è. Ah sì? Sì. Yes. Perché Tanto il mio cellulare non ce l'ha perché è hipster. Quindi. nessuno vuole fare le app per il tuo Cioè, cellulare? Instagram ti dà l'illusione di essere completa e poi gli mancano tipo due funzioni in croce e quindi non è completa. Eppure peggio di quelle che sono fatte male, ma tu lo vedi subito e quindi ti rassegni, no? Tu Cioè. compri un cellulare come comprati l'iPhone come le persone normali, Riccardo. No. Sto Ma lui deve combattere il sistema, scherzando. Stai comprando i Windows poi, cellulari cioè, di capito? hipster. Una Siamo roba tipo. piccolina. Senti, Anticapitalista. ormai ce l'abbiamo in. Sì. Ce l'abbiamo in tre al mondo quel povero tipo di cellulare, quindi lasciatemi in pace. Sono ancora Hipster, in sì. loot. Senti, c'è stato un periodo che stava guadagnando e infatti loro ci stavano perdendo monetariamente, però shh, non si dice. Cioè, praticamente li vendevano a 3 euro e quindi ne vendevano, però ci perdevano. Le strategie quelle belle. Sì, io l'unica economia che so è quella applicata. Ai cellulari. Sì, più o meno. Poi per qualsiasi altra cosa, ogni volta che vedo parlare di. Cioè, vedo parlare, sì, certo, Riccardo. Vedo scritto economia, azioni, sono tipo. Bitch. Ma tipo la cosa dei Però. Bitcoin, cioè io tutto sono stati l'argomento chiave dei miei pranzi di Natale, della vigilia e tutto quanto. E Davvero? tipo ogni volta Io non ho ci capito sei cosa andato bene tornata, allora? sì. Allora. E ogni volta che partivano questi cazzo di Bitcoin, io tipo no. Io non so cosa, cioè non so cosa sono, non ci credo, sono agnostica su Bitcoin. No. Per me no, non parliamone. Cioè, mi manca proprio il concetto di capire che cos'è un E io Allora. pure per quello dico, boh, cioè, secondo me non esiste, cioè, no. Adesso arriva lo spiegone di Avete Rick. presente gli spiegoni? Non che non li avete presenti, però quando GX, una versione di Yu-Gi-Oh!, era piena zeppa di spiegoni, tipo prendevano una carta, questa carta si chiama così, ha questo Come un film di Nolan. effetto. Boom! Ovviamente lo so. E quindi noi ogni volta eravamo tipo, yes, spiegone time! Ecco, è arrivato. Sai cos'è un bitcoin? Allora, No. praticamente i Oh bitcoin no, di sono nuovo. una. Martina, dovrai ammetterne l'esistenza, mi spiace. Scusa, qui vogliamo diventare ricchi con i bitcoin. Lasciate parlare pure gli altri. Così poi possiamo comprare il proiettore da 3.000 euro per ologrammi. Praticamente sono una valuta, si dice valuta? Valuta. Valuta. Quei bei momenti, ok. Comunque, Cominciamo bene. online si chiama tipo cripto, valuta, quello che è. Si usa soprattutto nel deep web perché nel deep web la priorità è non essere tracciato. Quindi Ok. prendi sti cosi che c'è. Dove io volevo cercare il video del download che non ho Riccardo non lo trovato. sa perché è troppo giovane, forse neanche Martina. Marti, sai di cosa stiamo No, parlando? amici, io ridevo per finta. In realtà non ho capito. Alessandro Era una risata Cattelan. registrata. Cosa? Che adesso Alessandro Cattelan Sì. ha avuto una brevissima carriera rap. No. È uscito Ma chi è con un questo altro tizio che tizio? adesso credo tipo scriva per dei programmi, fa tipo Oddio. l'ho scritto l'autore di programmi, e ha Occhio tirato fuori è un questa canzone che attimo si che chiama ci Il querelano, Danno. Sì. No, ma cioè io ammiro moltissimo questa cosa, cioè io voglio il video. Il video girava su TRL, perché lui faceva Esatto. il VJ a MTV ai tempi, Ok. quindi comunque girava lì, e non si trova, ma neanche il file audio, cioè il No. file audio non mi ricordo in che sito No, il file tremendo l'abbiamo audio trovato. qualcuno l'aveva Sì, su YouTube trovato. non c'è, cioè c'è tipo una specie di file audio registrato parecchio scadente. Sì, Non so sì. su che sito web sarà trovato sto file audio de Il Danno, e il gruppo, il loro duo rap si chiamava tipo 0131. Sì, è il previsto di Alessandria, Ah sì? quindi. No, non lo sapevo. Questa è Una una chicca! nota, una curiosità a caso. Ah, appunto di. E c'è sta canzone zarrogantissima, e io mi ricordo che anche il video era zarrogantissimo, Oddio. però è introvabile. Sì. Mi Dispi. ricordo uno dei due con gli occhiali da sole. Non mi ricordo chi. No, non Sì. mi... cioè... Forse è il Sì, ma catering. io non mi, cioè, non mi ricordo neanche come si chiamava l'altro. Mi ricordo solo che erano due. Non lo so, non ho idea. Ed è durato, cioè, è stata proprio una cosa molto molto breve. Hanno fatto sto singolo, poi la cosa è esplosa, ma non si è mai più sentito parlare di sto duo di rapper italiani. Hanno cancellato le Sì, tracce, quindi. sì, Presente esatto. la Damnatio Memoriae, hanno deciso che Esatto. non esiste più. Cioè che L'hanno non è cancellato esistito. Sì. dall'internet. Siamo rimasti solo noi sopravvissuti che dobbiamo portare avanti questa memoria. Magari la Il cantate futuro è voi nelle così. nostre mani. Esatto, la memoria storica dei giovani. I racconti orali come nell'antichità. Esatto. Questo podcast arriverà ai posteri, grazie a noi, la memoria degli 0131 e dei Dan. Sono tipo, Esatto. ah, Cattelan, certo. No, Cattelan ancora, cioè, fa il presentatore, quindi comunque è ancora su. Solo che questa carriera musicale non ne parla. Se ne vergogna di un Abbiamo figlio cercato di sfruttare il illegittimo. momento in cui Cattelan ha risposto Se a... famo Erbotto lo invitiamo, gli Io... chiediamo il video. Immagino tipo il suo agente che prima di fare le interviste va dal giornalista o da noi e gli dice niente domande sulla sua carriera musicale, va bene? Se no di questa intervista non si fa. È un tabù. Sì, esatto. Come fanno i manager di Louis Tomlinson riguardo a Harry Styles? Secondo te io come lo so che succedono queste Esatto. cose? Sapevo che stavo Scilla pensando alla conosce il stessa mondo degli cosa. agenti adesso. Sì, l'industria musicale non ha più segreti per me. Per quelle pazzoidi delle Sì, Larrys. no, ma sanno tutto. Cioè, una volta addirittura una tipa, non so come, ha recuperato il loro contratto di X Factor e l'ha messo su Sul internet. serio? Ma non è tipo Sì, illegale. giuro. Cioè, tipo un contratto tipo, il contratto base degli artisti usciti da X Factor per vedere quali fossero le E che clausole, clausole roba del c'erano? genere. Nel loro c'era tipo niente tatuaggi fino alla maggiore età per non rovinargli l'immagine di bravi ragazzi. Oh, Infatti, Gesù. a un certo punto si sono fatti tutti 3.000 Sì, un tatuaggi. milione tutti insieme, vero? Sì, esatto. Poi non mi ricordo. Vabbè, ovviamente per i minorenni c'era tutta la roba dei guadagni che vanno alla famiglia e non a loro personalmente, che passano attraverso i manager, tutta quella roba lì. Ovviamente fedeltà cieca a Simon Cowell, Sì. Quella bestia cioè di tipo fama. divieto assoluto di parlare male di lui in tutte le interviste, roba così. Ok. Cioè, ogni volta che glielo chiedono, loro devono calare la testa e dire sì, dobbiamo tutto a lui, è lui che ci ha creato, gli siamo grati per Ma in sempre realtà a lo odiano, lo Cesare. sappiamo tutti. Sì, questa cosa sta Avranno. diventando tipo un podcast sui complotti. Chi è che non Sì, lo no, odia? tra Scusa, tra l'altro. l'altro. Complotti. Ah, ma avete presente quelle nuvole dalle forme strane? Praticamente stanno modificando il nostro clima Sì, e no, cioè... mandando le malattie dal cielo. È Simon Cowell che sta modificando le Cioè, un sacco di roba sui pettorali rifatti di Simon Cowell ho letto in questi anni di permanenza sul lato oscuro di Tumblr. È questo il vero deep web, diciamocelo proprio. Ma Tumblr in generale, perché credo che abbia delle regole di comunità parecchio Esatto, lascive. anch'io so Quindi la questa gente fa il cosa. cazzo che gli pare. C'è di tutto su quel sito, di tutto. Altra volta abbiamo girato in Sì. TL. Da Tumblr e Reddit nasce Sì, tutto, vedi, Reddit praticamente. io zero. Cioè, vedo gli screen dei Di Reddit, sì. subreddit, così di santo Esatto. si chiamano. Però Reddit non ci sono mai entrata, non so come si usa, non ne so niente. Io una volta ho scritto un tweet sul fatto che appunto tutti i contenuti venissero in origine da Tumblr e da Reddit. E la gente a quanto pare, cioè, era tanto d'accordo e ho pensato, boh, ma potrei anche farci una capatina su Reddit. È molto confusionario e la gente è strana. Una cosa divertentissima di Reddit è un subreddit che adesso hanno chiuso sugli incel, che sono i maschi che non riescono, insomma, a concludere con le ragazze. È una sigla per involuntary celibacy. E praticamente hanno creato sto subreddit in cui parlano male delle donne perché non capiscono che i veri uomini sono loro, gli incel, e non i vari palestrati biondi. Cioè, c'hanno st'idea della donna stupida che vuole il palestrato biondo. E Okay. scrivono robe allucinanti, cioè... Ma sono loro che hanno creato Alpha Woman, Meno male che è praticamente. chiuso adesso. Penso sia più o meno, cioè, quel tipo di gente lì. Sì, ma infatti... Sì, quel tipo di gente lì. No, era stradivertente perché c'era la frustrazione di Oh. sti ragazzi che non riuscivano a concludere e se la prendevano con tutto il Che mondo tranne che tristezza, con loro stessi. Madonna, Non insidiosa. so quanto è durato su, poi l'hanno chiuso. Perché era una Porca. cosa Però indicibile. dall'esterno era, sai, proprio gli sfigati tremendi. Sì. Gli sfigati cattivi. Che poi fai il giro e diventa divertente per te da fuori, però c'è male. Infatti poi gliel'hanno chiuso dopo Avevano pure dei un po'. E nomi tutta per sta roba nasce queste. su Reddit. Sì. Cioè è un po'... La stessa cosa di Tumblr, cioè ci trovi qualsiasi cosa, ci trovi roba figa, ci trovi anche sti disperati No. tirati fuori dal buco di culo della terra. Cioè, avevano pure dei nomi modello per questi ruoli che loro avevano Sì, c'erano tipo i inventato. maschi palestrati che piacciono a tutte le femmine, sono i Chad. Quindi li chiamavano Chad con la C maiuscola. E le femmine stupide, non mi ricordo, forse Susie. Sì, ci Cioè, starebbe c'avevano tipo comunque. st'idea distorta di quello che vuole una ragazza. Minchia, che sfigati. Meschine. Sì, tantissimo. No, i loro interventi presi fuori contesto, cioè, ho visto degli screen su Tumblr facevano spaccare, proprio per quanto fossero... Cioè, io non sapevo neanche cosa fossero gli incel, sono andata a googlare. Quando ho scoperto che significava involuntary celibacy, cioè, l'ho scritto a Riccardo tipo disperato, cioè, quanto cazzo fa ridere? Si Sì, prendono in pare. giro Quanto da stanno soli. male, capito? Vero. Se è come dire nessuno mi carica, quindi sono single. Ah, fan. Cioè, è proprio una roba... Hanno una brutta idea distorta di come funzionino le relazioni nel mondo reale, queste persone qua. Avete presente l'uomo dei fumetti dei Quello dei Simpson? Simpson. Credo che sia anche lui un incel. Uno dei maggiori utenti di Reddit, in generale, proprio. Sì, è un po' un covo di Sì, è un po' schizzoidi, diciamo. un co... Cioè, sì, mi ripeto, cioè, ci trovi roba figa, roba proprio... No, io Reddit bassissima. lo uso solo per i torrent, cioè i subreddit, insomma, tutti i torrent dei film, Ah, cose sì. varie, se non li trovo. Davvero? Wow! Non lo sapevo. Zanzan. Non che Illegalità, noi usiamo i insomma. torrent, cioè non stiamo No! implicando che noi No, utilizziamo ma i i torrent. torrent. No, Li perché sono roba brutta. guardo, li ammiro, ma non li Prima uso. vado al cinema, poi compro il DVD. Poi se non mi trovo, cioè se il DVD non è con me, forse se non c'è su Amazon, su Netflix, se non riesco ad acquistarlo legalmente su Proprio iTunes, vado a cercarlo sui proprio mi piange il torrent. cuore, Sì. però. Cioè è proprio l'ultima spiaggia. Facciamo tutti così, sì. Viva la Polizia legalità, questo postale, non possiamo. Ciao, polizia postale, siamo persone belle. un saluto a casa, buone feste. Un saluto alle forze dell'ordine. Ora, uno sguardo al futuro. Secondo voi i quarantenni, quelli del caffè, del buongiornissimo, arriveranno mai? Stanno iniziando ad approdare su Twitter con nostra somma gioia. Ok, è Arriveranno tutta colpa di mai? Univeti, diciamolo pure È chiaramente, è vero. tutta colpa di È Univeti, vero. se sta arrivando sta gente su Sì, Twitter. è vero. Mi ricordo, tra l'altro, la prima volta che mi hanno detto che ce l'ho finito, non avevo capito neanche cosa fosse. Tra l'altro hanno negato, canzone da Gumblock, hanno negato di guadagnarci in nessun modo, e poi invece hanno tipo Figures. fatto il diario scolastico, l'agenda, con i nostri tweet dentro. È una cosa Cioè... proprio. Questa gente ci campa e noi no. È Ma io non un'ingiustizia, ci io non sono so perché. finita su È a Niveti perché non debitazione sono così impropria. simpatica, quindi non mi preoccupo. Vabbè. Anch'io mai, a parte che io ho bloccato tutti quelli Ah, ma collegati anch'io li ho in bloccati. Abbiamo i qualche nick di questa modo. Sì, gente? sei persone mi pare che Ah, fossero. sì? L'altra volta ho scritto a una persona che c'era finito, mi pare, o forse lei ha scritto a me una delle due volte che è successo perché. Ok. E mi ha detto che c'erano alcuni nick di persone che avevano messo Quindi lì. se li Sì, blocchi loro non ti possono leggere, non ti possono mettere su per Univeti. ora vedo la lista dei miei bloccati Esatto. e vedo se li No, riconosco non avevo casomai. idea. Cioè, non sapevo che sapessimo chi c'era Sì, abbiamo degli dietro indizi. quei nick. Sì, qualcuno lo sappiamo. Noi sappiamo Wow. tutto. La mafia di Twitter, Una sì. delle due o tre volte che è successo era a me che ho postato un video di un panda che cresceva e quindi c'erano tipo giorno 1, giorno 8 c'era sto micro panda che diventava sempre più carino e più pandoso. La gente è impazzita, completamente impazzita. Giustamente, ora Sì, di infatti. contenuti di qualità. Tra l'altro c'era il marchio a bella vista nel video, quindi non Cioè, ho non hai rubato neanche. Oh, sì, niente. non ho neanche avuto bisogno di scrivere fonte e tutto il Sì, sì, resto, sì, perché sì. a volte lo faccio quando posto cose senza il nomignolo, perché sennò è brutto. E poi l'altro non me lo ricordo, sicuramente sarà stato Ma io qualcosa di pure un paio di stupido. volte, non di più. Però sì, cioè, gira un po' il cazzo. Alla fine a me non cambia niente. Perché continuo a usare Twitter come mi va, però gira un po' il cazzo che sta gente con i nostri tweet ci vende la roba. Cioè, ok, c'è il nick, ma non significa niente che ci Sì, sia il beh, in nick. ma cioè, quelli che scrivono su Twitter non ci Sì, guadagnano no, niente, infatti. Sì, non è giusto. infatti, esatto. Ah, invece ce Grossa n'era uno ingiustizia. che però non è finito da nessuna parte perché era tipo la citazione a un altro tweet, forse di quella foto famosissima che gira di due soldati russi che si baciano, una cosa del genere. C'è scritto due amiconi che si scambiano un Ah, bacio d'affetto e io sì. ci ho scritto, cioè ci ho messo la gif di quella che fa People are gay, Steven. Steven, Esatto, e la gente è sì. impazzita pure lì. Però quello, cioè, non aveva senso di finire da nessuna parte, per fortuna, perché non era contenuto mio, diciamo. Ma poi figuriamoci, quella sarà una pagina di puritani. Sì, Sì, no, tra infatti. l'altro. Ma poi, cioè, oddio, no, non voglio parlare male della gente, ma alcuni tweet che ci finiscono sono di una banalità Sì, è imbarazzante. vero. No, ma parliamo male della Tipo, gente. oggi è Simone sta lunedì. zitto, però ci Nella aizza. prossima puntata parliamo male Esatto. della Facciamo gente. tutto noi. Lui sta zitto e aizza. Io ti tiro le fila Il burattinaio. dalla Demiurgo regia. malvagio. È bellissimo, rende proprio l'idea di Demiurgo malvagità. malvagio, è Demiurgo. vero. L'altra volta lui tipo, si chiama Demiurgo il dio creatore di Platone. Lei si è tipo, sì, lei, vai, Ci devo scrivere un tweet su mia madre, definendola Demiurgo malvagio. Mi serviva. Ma per favore, lei su Facebook l'altra volta mi ha definito da piccolo, non mi ricordo bene le parole, comunque mi ha definito un despota quando ero più piccolo, che è anche vero, però amica, sono tuo figlio. Minchia che intrattabile Riccardo da piccolo. Mamma mia, Porca vacca, raga. insopportabile. Non che adesso sia tanto migliorato. Facciamo Come una oggi. puntata su Riccardo da piccolo. E poi la testimonianza di mia madre che ogni volta sembra cascata dalle nuvole. Ma io non ho capito come sia successo che da piccolo eri un mostro, cioè tipo me le carica di santa ragione, e però sei cambiato così tanto, e tipo, ma la gente Gente migliora. cresce. Non sempre, anzi, però. Io no, per esempio. Chi stava parlando? Chi è che si è interrotto? Probabilmente io perché parlo sempre io, però. Sì, infatti, io di il beppe. Sto parlando del vuoto, Vabbè, dai. che famo? Sì, siamo a Chiudiamo. un'ora. Sì, Siamo a siamo un'ora. un'ora. Possiamo fare i Chiudiamo. saluti? Sì, dai, non è che possiamo dire tutto subito, No, ci magari dobbiamo dobbiamo le lasciare un po' di cartucce. Dobbiamo suspense. conservare. Ok, Sì, sigla di vabbè. chiusura. Inventata, mi sa. Sì, sigla di chiusura. Immaginatevela. E quindi ci sentiamo alla prossima volta, che non sappiamo quando sarà, ma vi verrà annunciato nei canali appositi, cioè i Twitter. nostri gruppi di Non Twitter. sappiamo quando riusciremo a Esatto, dirlo. fra 6 mesi o un anno, forse. Però noi ci proviamo. Sì. È Ci sarà apprezzabile. una Ci sarà una prossima prossima volta. volta, questo possiamo Esatto. dire. Ciao amici di Ok, sì. Twitter e di altri canali che arriveranno. E Ciao anche no, ciao. cioè, Ciao grandissimo anche pubblico no di di fedeli e tutti, affezionati. cioè noi. Noi e noi stessi. Vabbè, chiamiamoli i nostri Salutiamo, fan. Ciao fan, vi io sono amiamo. Grazie, siamo Riccardo. quello che siamo grazie a Ciao voi. fan. Ciao Ciao fan, speriamo di essere, cioè di inserire qualcun altro nelle prossime puntate. Sì, Salutone a possibilmente. Davide che voleva esserci, ma il suo computer si è spaccato, tipo, si è tipo imploso. E niente. Buona serata. Ciao. Bacini, Se kiss. vuole bene. ciao, statevi a corte. Ciao! Stacchiamo. Sì. Uno, due, Ok. tre.